Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Negli Stati Uniti con Gianrico Carofiglio. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. I viaggi in compagnia degli scrittori non smettono di stupirmi. Anche oggi, che se vogliamo è la volta dello stereotipo del viaggio, dell'idea platonica del viaggio, quello che abbiamo sognato, immaginato e sentito raccontare tante volte nei film, nei libri, dagli amici, quello dell'On the Road negli Stati Uniti. E a parlarmene c'è Gianrico Carofiglio. Sono passata attraverso un metal detector e il controllo severo di una portineria in via Santa Chiara a Roma. Ho preso l'ascensore fino al secondo piano e adesso sto per entrare nel suo ufficio, stanza 255. Sono decisamente emozionata all'idea di incontrare il padre dell'avvocato Guerrieri. Lui è alla sua scrivania, abito grigio elegantissimo, e sta dando le ultime disposizioni alla sua segretaria. Dopo averla congedata, mi fa accomodare e comincia subito il racconto. Vabbè, posso partire con una banalità colossale. Ovviamente a me piace molto viaggiare, è un tipo di viaggio che amo molto più di altri, è quello in macchina, noleggiando una macchina, arrivato sul posto senza un itinerario prestabilito, decidendo di giorno in giorno o di notte in notte dove dormire, dove fermarsi. E non c'è dubbio che c'è un posto che più di altri si presta a questo tipo di viaggio, a questo modo di viaggiare, sono gli Stati Uniti, dico complessivamente considerati. Io ci sono stato molte volte, e molte di queste volte il viaggio è stato proprio diciamo concepito in questo modo, cioè si arrivava, che ne so, a New York o a Miami o a Los Angeles o a Boston o a Chicago, lì si prendeva la macchina e via. E in questo modo io ho girato, insomma, una bella fetta degli Stati Uniti. E devo dire che ci sono poche cose che danno l'idea, diciamo così, della libertà e del viaggio, come prendere una macchina, mettersi su certe strade, anche questo è banale ma è vero, certe strade infinite, passando per paesi con dei nomi assurdi, vedendo che cos'è veramente la provincia americana profondissima, e scoprendo delle cose che poi hanno a che fare davvero con un modo di vivere e di interpretare la vita diversissimo dal nostro, che però è anche nostro perché l'abbiamo visto svariate volte nei film. Fatti accompagnare dalle emozioni degli scrittori in un viaggio intorno al mondo. Compagni di viaggio, ogni sabato alle 12 e in replica la domenica alle 22 su Radio 24.